lisusu api na bomba mesika nini kufa eto nibisika nyoso sokyo tiki biso yawe biso toko suka wapi mara natato bele Canine, ufa e tondi bisica nioso. So che ho titi biso yawe, biso toko su kawapi, maranata to beleli yaka. Yakan kolo. Sala yango nazali kosala malamu esengeli na sala nazoko kate.